Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. L'inaugurazione dell'anno giudiziario. Mancino no all'intimidazione delle toghe. Alfano, è il Parlamento a fare le leggi. I disoccupati italiani superano i 2 milioni, aumentano soprattutto fra giovani e donne. Italia, fanalino di coda sugli stipendi, secondo l'Eurispes. Ecco le materie della seconda prova della maturità. La Gelmini assicura anche quest'anno tracce vicine agli interessi dei ragazzi. Juventus, Zaccheroni a Torino per sostituire Ferrara dopo la sconfitta con l'Inter. E ancora un buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Torniamo in apertura sull'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione. Ci colleghiamo dunque con Roma e con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Dialogo e riforme condivise in queste due parole, forse può essere sintetizzato il messaggio contenuto nelle relazioni di quest'anno. Dialogo l'ha chiesto con forza il procuratore generale della Cassazione Vitaliano Esposito, che ha invitato a fermare le tensioni ormai non più tollerabili tra toghe e politica. Dello stesso avviso il primo presidente della Cassazione Carbone, il vicepresidente del CSM Mancino e poi il capitolo riforme. La Cassazione si è detta favorevole a riforme che contengano la durata dei processi, a patto che non siano state dalla cronaca, ma di largo respiro e soprattutto condivise. Sì al processo breve, ha detto Esposito, ma lo Stato assicuri una buona amministrazione della giustizia. Sentiamo la sua voce. Per la prima volta in Italia è stato valorizzato il concetto di uniforme esercizio dell'azione penale, ma si tratta pur sempre di interventi che incontrano non poche difficoltà, dovute anche alla carenza di un comune sentire sui valori della Convenzione. Questa carenza contribuisce anche ad alimentare i contrasti tra foro e magistratura e tra magistratura e classe politica. Contrasti non più tollerabili. Anche quest'anno poi l'analisi del sistema è sconfortante, il procuratore generale si rischia la paralisi, il sistema non è più in grado di rispondere alle domande di giustizia dei cittadini e anche per il CSM dunque le riforme sono necessarie, devono essere fatte però con la collaborazione di tutti, dice Mancino, il quale ha poi difeso così le toghe. Sentiamolo. L'esercizio della giurisdizione infatti va salvaguardata da ogni forma scritta o verbale di intimidazione o di interferenza che ne possono mettere in dubbio il pieno e libero suo svolgimento. Se Mancino difende i magistrati, una bacchettata arriva invece dal presidente Carbone. La giustizia non ha bisogno di audience, basta con i magistrati nei talk show. Alle toghe risponde il guardasigilli Alfano, lo stato della giustizia è una vera e propria emergenza nazionale. Occorrono riforme senza indugi né tentennamenti, ha detto, auspicando un clima di condivisione. Ma sentiamo la voce di Alfano. Intendo ribadire il nostro pieno e assoluto rispetto per l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, un recinto, quello della giurisdizione, che riteniamo sacro ed inviolabile. I giudici sono soggetti soltanto alla legge e la legge, è opportuno ribadirlo, la fa il Parlamento, libero, democratico, sovrano, espressione del popolo italiano, quello stesso popolo italiano in nome del quale i giudici pronunciano le loro sentenze. Non si tratta di due popoli diversi. E ringraziamo Alessandra Schepisi per questo collegamento dalla Cassazione a Roma per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Brutti dati sulla disoccupazione, cambiamo così argomento, comunicati oggi dall'Istat. È così Vincenzo Miglietta? Sì, buongiorno, è così, ancora dati negativi per il mondo del lavoro con un trend che non vede per il momento un'inversione di rotta. Il tasso di disoccupazione a dicembre, rileva l'Istat, è salito all'8,5% dall'8,3% di novembre. È di fatto il dato peggiore da gennaio 2004, inizio delle serie storiche. I senza lavoro sono 2.138.000, 57.000 in più in un solo mese, quindi rispetto a novembre, e 392.000 in più in un anno rispetto al dicembre del 2008. I più penalizzati sono le donne e i giovani. Il tasso di disoccupazione femminile è salito al 10%, quello giovanile arriva al 26,2%. E nel pomeriggio il tavolo tecnico sulla Fiat. Sì, l'appuntamento appuntamento è per le 16 al Ministero dello Sviluppo Economico, si parlerà soprattutto dello stabilimento di Termini Imerese ma anche della cassa integrazione annunciata dalla Fiat in tutti i siti produttivi. È necessario che il Lingotto produca più auto in Italia, il governo farà la sua parte, ha ricordato il Ministro per lo Sviluppo Economico Scajola. Di Termini Imerese ha parlato però anche la Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Se uno stabilimento non sta in piedi per motivi competitivi e logistici, ha detto, il problema non è mantenerlo là ma reimpiegare la forza lavoro che rischia la disoccupazione. Siamo pronti a tutto pur di salvare i posti di lavoro, commenta dal sindacato il leader della CISL Bonanni. E da Roma è tutto. Grazie. Proprio pochi istanti fa c'è stato un appello della CEI per la Fiat. Accogliamo il grido dei lavoratori perché vengano salvati i posti di lavoro, hanno detto i vescovi italiani. Mentre su un altro fronte molto caldo, quello dei lavoratori Alcoa che stanno protestando ormai da giorni a Porto Vesme e più in generale in Sardegna. In questi minuti il prefetto di Cagliari e il questore, sempre della città sarda, stanno tentando una mediazione con gli operai che da questa mattina hanno occupato la pista e l'aeroporto di Cagliari-Elmas. L'avevano già fatto anche ieri. Ed ora Davos in Svizzera per il World Economic Forum. La notizia che l'Unione Europea sta preparando un piano per salvare la Grecia piomba al World Economic Forum di Davos, che cerca di definire le strade per uscire dalla crisi. Il primo ministro greco, Giorgio Papandreou, presente ai lavori, dice che non è stato consultato sul piano europeo e che lui è determinata a farcela con le proprie forze. Non c'è nessun piano B sulle sponde dell'Egeo. Ma anche la disoccupazione spagnola ai massimi crea apprensione al premier spagnolo Zapatero, anche lui presente tra le nevi di Davos. È un'Europa ripiegata sui suoi problemi, con il presidente della BCE, Jean-Claude Trichet, che invita tutti i partner a ridurre i debiti pubblici per far ripartire la ripresa. Forse è troppo presto per ridurre gli stimoli fiscali, il rischio è quello di una ricaduta e allora sarebbe un problema grave. Vittorio D'Arolda, GR24, Il Sole 24 Ore. E già lavoriamo in pochi, come dicevamo poco fa a proposito dei dati sulla disoccupazione. Inoltre l'Italia è anche fanalino di coda fra i paesi dell'OCSE per salari percepiti e nella top 10 per il cuneo fiscale. Sono alcuni dei dati rilevati nel rapporto dell'Eurispes 2010. È un'Italia bloccata da una transizione infinita, quella descritta dal rapporto 2010 dell'Eurispes. Secondo il presidente Gian Maria Fara, manca un progetto per il futuro. La classe politica pensa solo al mantenimento del potere. L'unica soluzione per avviare le riforme è una nuova assemblea costituente. La colpa è di un bipolarismo imposto agli italiani, di un Parlamento assunto che obbedisce ai leader datori di lavoro. Esiste così una terza Italia che non si sente rappresentata e che ha molte cose da dire. Il 27% degli italiani non si riconosce in nessuna forza politica. Secondo l'Eurispes il paese è un cantiere aperto, ma gli architetti non sanno cosa costruire. C'è una moltitudine di litigiosi che non ha nessun interesse a che i lavori partano e si concludano. Un dato su tutti spiega l'assenza di progetti. Il Ministero dei Beni Culturali ogni anno non riesce a spendere metà del proprio bilancio. Secondo l'Eurispes potrebbe raccogliere tra i 70 e i 150 milioni di euro nei prossimi 3 anni. Basterebbero per ricostruire il centro storico dell'Aquila e a stimolare la crescita economica. Nicola Accardo, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo all'articolo pubblicato oggi su Panorama riguardante la escort Patrizia Daddario. Al momento non trova conferme la notizia dell'apertura di un'inchiesta a Bari sul presunto complotto ai danni di Silvio Berlusconi, un'inchiesta che vedrebbe indagata Patrizia Daddario, la escort barese che aveva rivelato agli inquirenti di aver passato una notte con il premier. Nel caso sarebbero coinvolti anche magistrati, politici e giornalisti, almeno stando a quanto sostiene il settimanale Panorama, secondo il quale la Daddario sarebbe stata selezionata e poi consegnata a Giampaolo Tarantini, l'imprenditore che ha ammesso di averla pagata per farla partecipare a 2 serate con Berlusconi a Palazzo Grazioli. Obiettivo del complotto sarebbe stato quello di screditare la reputazione del premier. Sempre secondo Panorama, gli inquirenti avrebbero disposto anche accertamenti su diversi conti correnti intestati alla escort. Le rivelazioni del settimanale sono state però smentite da fonti della Procura barese, dalla quale l'unica conferma che arriva è quella relativa all'apertura di un'altra inchiesta per una fuga di notizie che a settembre aveva portato alla pubblicazione pubblicazione di alcuni verbali degli interrogatori di Tarantini. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore. Le notizie dall'estero: bisogna sbarazzarsi del dollaro come valuta nelle transazioni perché è la moneta delle politiche americane, lo avrebbe detto stamani Bin Laden in un nuovo messaggio audio diffuso dalla TV satellitare Al Jazeera. Il leader di Al-Qaeda ha ammesso che sia lui, ha anche evocato Noam Chomsky, il noto intellettuale americano che secondo Bin Laden avrebbe paragonato le politiche americane a quelle della mafia. Sono loro i veri terroristi, avrebbe detto ancora Bin Laden. The primary consideration for me was to send an absolutely powerful. E questa invece è la voce dell'ex premier britannico Tony Blair, che sta parlando davanti alla commissione d'inchiesta dell'impegno della Gran Bretagna nella guerra in Iraq. Fino all'11 settembre pensavamo che Saddam Hussein fosse un rischio e facemmo del nostro meglio per contenere quel rischio, ha detto Blair. Dopo gli attentati questa percezione degli USA e della Gran Bretagna cambiò drammaticamente. Meno clandestini, meno criminalità, ha detto ieri Berlusconi. Siete d'accordo? Era il tema del nostro sondaggio di oggi. E poco fa anche la CEI è intervenuto su questo argomento dicendo le nostre statistiche dimostrano che le percentuali di criminalità di italiani e stranieri sono analoghe se non identiche. Lo ha detto il segretario generale della CEI, Monsignor Crociata, rispondendo ad una domanda proprio dei giornalisti sulle affermazioni del premier Berlusconi. Questa dunque è l'opinione dei vescovi italiani. Sentiamo invece qual è la vostra. L'uscita di Berlusconi sull'immigrazione ha suscitato un vespaio. È vero che il premier ieri stava parlando di contrasto all'immigrazione clandestina, ma quando ha aggiunto che meno extracomunitari significa meno forze che vanno a ingrossare le schiere delle organizzazioni criminali, l'associazione straniero uguale criminale è apparsa esagerata. Il nostro sondaggio era questo: meno clandestini uguale meno criminalità? Ebbene, il 78% di voi sostiene di sì, anche se l'onorevole Livia Turco del Partito Democratico è molto arrabbiata. Intanto ha detto meno immigrati uguale meno criminalità. Le frasi che vengono dette contano, incidono, formano opinioni, tanto più quando sono dette autorevolmente. Quella frase è molto grave e poi una frase assolutamente inaccettabile, perché fomenta la paura, fomenta il pregiudizio. Bianco o Nero torna lunedì mattina alle 8:30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E la nostra pagina sportiva, Paolo Piacenza, si apre con una notizia battuta pochissimi istanti fa dalle agenzie. La lascio dire a te. Sì, buongiorno Piera, buongiorno agli ascoltatori. È proprio così, la telenovela ambientata sulla scomoda panchina della Juventus è finita. A Torino oggi è arrivato il sostituto di Ciro Ferrara, alla fine l'ha spuntata Alberto Zaccheroni. Questa mattina è arrivato appunto a Torino, sotto la mole ha firmato il contratto, sarà lui il traghettatore dei bianconeri in attesa del tecnico che a fine anno possa aprire un nuovo ciclo. A breve ci sarà l'annuncio ufficiale del club, in realtà è una anticipazione quella che abbiamo letto nelle agenzie. L'esonero di Ferrara e l'ufficialità sul nome di Zaccheroni saranno comunicati in una conferenza stampa o con un comunicato stampa. Poi l'ex tecnico di Milan e Inter, Zaccheroni, dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento a Vinovo. Il suo nome, alla fine di quella che era apparsa una corsa a due con l'ex tecnico dell'Under 21, Claudio Gentile, è arrivato solo dopo la sconfitta che ieri la Juve ha subito contro l'Inter 2-1 ed eliminazione dalla Coppa Italia. In realtà già da qualche giorno la società di Corso Galileo Ferraris aveva deciso di sostituire Ferrara, che però ha dovuto restare al suo posto subendo altre sconfitte, le più recenti contro la Roma appunto sabato in campionato e ieri sera appunto, come abbiamo detto, contro l'Inter. Alberto Zaccheroni, va detto, aveva allenato anche Udinese, Lazio e Torino, ma con il Milan aveva conquistato lo scudetto nel 1999. E per ora è tutto. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato a lungo dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Mancino dice no all'intimidazione delle toghe, la risposta di Alfano è il Parlamento a fare le leggi. Poi abbiamo parlato di economia, perché i disoccupati italiani non sono dati buoni, naturalmente superano i 2 milioni, aumentano soprattutto i disoccupati fra giovani e donne. E poi l'avete sentito poco fa, la notizia di calcio, che è Alberto Zaccheroni, il tecnico individuato per sostituire Ciro Ferrara sulla panchina della Juventus. Espulsione per chi non denuncia il pizzo con una delibera. Come sapete, la giunta di Confindustria da ieri ha obbligato tutti gli imprenditori a non soggiocare al racket e alle leggi della malavita organizzata. Sentiamo Maurizio De Lucia, PM palermitano, da anni titolare di indagini sulle estorsioni, al microfono di Raffaella Calandra. Noi abbiamo sempre detto che la lotta alla mafia si fa in primo luogo con le forze di polizia e con la magistratura, ma poi serve altro. Confindustria è appunto una parte di quell'altro che serve per sconfiggere la mafia. Cos'è che porta gli imprenditori a finire nel gioco della malavita? L'impegno poi deve essere dello Stato per far sì che nessuno sia lasciato solo e che la presa di posizione di Confindustria porti soltanto in casi estremi alla sua realizzazione, cioè all'espulsione, ma per tutti gli altri casi deve essere chiaro che lo Stato c'è, che c'è un messaggio forte di assistenza e di protezione per tutti coloro che si oppongono alla mafia. Il problema del credito, in che modo, che segnali concreti ci possono essere da parte dello Stato per rendere tangibile questa assistenza per chi non vuole finire nella rete della mafia? Certo è che ad esempio una politica del credito più favorevole alle imprese rende meno facile per la mafia offrirsi sul mercato parallelo per sostenere naturalmente soltanto in maniera fittizia imprenditori che si trovino in difficoltà. Da quando anche Confindustria Sicilia aveva lanciato questo segnale molto forte di espulsione, voi avete percepito un adattamento, diciamo, a questo tipo di nuovo contesto, come era stato il fatto di non segnare ad esempio i nomi dei commercianti nei loro libri mastro? Insomma, la malavita aveva registrato questo segnale diverso degli imprenditori? Il colpo per l'organizzazione mafiosa è terribile, perché qui agiamo su un piano culturale. Questo Cosa Nostra lo capisce, cerca di adeguarsi, ma indubbiamente davanti a una presa di posizione di imprenditori che oggi dicono no alla mafia in questo modo, per un'organizzazione che per secoli è stata abituata, come dicono loro, a camminare insieme a imprenditori con cui hanno fatto affari, il colpo è assolutamente importante, non dico decisivo, ma sicuramente ha un significato di natura storica. Si deve far capire a tutti che essere mafiosi non conviene. È notizia di pochi istanti fa che gli operai dell'Alcoa hanno deciso di sospendere l'occupazione della pista dell'aeroporto di Cagliari-Elmas dopo che il prefetto di Cagliari ha comunicato che Palazzo Chigi ha anticipato al 2 febbraio l'incontro con i vertici della multinazionale statunitense, originariamente fissato invece per il 5 febbraio. È passato la notte presso la casa di un parente, la famiglia di Ischia, la cui abitazione è stata demolita ieri dalle ruspe. Oggi a Casamicciola è tornata la calma dopo le proteste contro l'abbattimento della casa abusiva. La gente dell'isola spera ora in un condono che sani la situazione. Ma proprio contro la politica dei condoni si scaglia Ermete Realacci del PD, intervenuto questa mattina a Radio 24. L'abusivismo, lo sappiamo tutti, da tempo è un problema enorme ed endemico in alcune aree del paese. In Campania negli ultimi 10 anni sono state costruite 60.000 case abusive. Non è un problema soltanto, diciamo, di deturpazione del paesaggio, non è un problema soltanto di evasione fiscale, di lavoro in nero, ma è un problema anche di sicurezza. Lo ricordava anche lei, ad Ischia qualche anno fa sono morte 4 persone perché vivevano in una casa abusiva costruita in un posto sbagliato. E spesso in tante aree d'Italia queste case abusive sono costruite in maniera tale, per esempio, da non essere sicure dal punto di vista antisismico. Noi non possiamo piangere i morti dell'Aquila, guardare a toniti e sgomenti a quello che succede ad Haiti e dimenticare che se costruiamo male le case, se le costruiamo in posti sbagliati, corriamo il rischio di avere in futuro ancora altri lutti, ancora altre vittime. Quindi è chiaro che è un fenomeno che va stroncato. C'è una sola maniera per fermarlo, è quello di far rispettare la legge, è quello che si sta facendo adesso a Ischia. Una situazione che coinvolge tutti ad Ischia, questa è la posizione di Gennaro Savio, uno dei promotori delle proteste contro le demolizioni. Perché poi tutti sapevano, i partiti, il PD, il PDL, i partiti del centro-destra e del centro-sinistra, le istituzioni, che a Ischia si costruiva abusivamente. Lo hanno consentito in un certo modo, è servito anche come indotto per prendere voti attraverso un clientelismo sfacciato. E hanno costruito tutti a Ischia, soprattutto hanno costruito coloro che hanno voluto speculare attraverso il mattone selvaggio. Hanno costruito persino i cosiddetti boiardi di Stato di tutti i livelli istituzionali, che qui si sono fatti la villa sulle coste, sulle colline, non per venirci a vivere con la famiglia, ma per venirci a trascorrere le vacanze a luglio e agosto. Ma in genere questi non incorrono nell'abbattimento, perché non hanno mai subito i sigilli proprio per i loro legami istituzionali. Questa è una denuncia forte che faremo, anche perché ora vorremmo sapere chi è venuto a violentare la nostra isola, non per necessità, ma per venirci in vacanza. Ed ora il blocco delle auto domenica a Milano per tentare di abbattere il livello di inquinamento. Sentiamo come la pensano i milanesi in queste voci raccolte da Marco Lignana. Sono molto arrabbiata, cerco di utilizzare la bici a Milano nonostante il freddo di questi giorni e le strade di Milano, però in questi ultimi giorni l'aria è irrespirabile, io la bici da domani non la prendo più. E domenica? Domenica finalmente si spera di poter viaggiare per la città senza auto, un sogno per i ciclisti. Siamo rovinati perché c'è troppo inquinamento. Però domenica si gira senza auto? Non serve a niente perché è una goccia nel deserto, come non serve a niente a mio parere l'Ecopass, tassa per inquinare. Paghi e inquini. Va disincentivato in tutti i modi l'uso dell'auto. Cioè va scoraggiato non solo l'uso del mezzo privato per l'inquinamento che produce, ma anche per il traffico. Non solo l'aria è irrespirabile, ma anche un cattivo odore. Io viaggio tutti i giorni, vengo dalla provincia di Lecco e la differenza è ben evidente al mio naso. E cosa ne pensa delle domeniche senza auto? È inutile, il problema non sono le auto, sono le caldaie delle case, sinché non risolvono quello di problemi. Dovrebbero chiudere per certe strade, insomma. E domenica? Va bene, va benissimo. Si prende la bicicletta, insomma è meglio. E parliamo di scuola, ecco le materie per la prossima maturità: greco al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico, pedagogia al liceo pedagogico, figura disegnata al liceo artistico. Ad annunciare le materie il ministro della pubblica istruzione su YouTube, come ormai tradizione. L'anno scorso sono state scelte tracce, credo, chiare, più corte e forse più vicine all'interesse dei ragazzi. L'intenzione è di procedere nella stessa direzione, quindi nel rispetto della tradizione della maturità, individuare delle tracce che però siano vicine alla sensibilità dei ragazzi con qualche elemento di novità. Omaggio in tutto il mondo allo scrittore americano Salinger, morto ieri, come sapete, a 91 anni. Adriana Fracchi ha sentito lo scrittore italiano, questo invece Alessandro Piperno. Come dicono gli inglesi, Salinger, it's not my cup of tea, diciamo, non è proprio il mio autore preferito. Ciò non di meno è indiscutibile il fatto che se è un capolavoro ciò che resta e ciò che condiziona tanti scrittori e tanta gente comune, sicuramente il giovane Holden è un capolavoro. Se è così popolare vuol dire che c'è un motivo? Sì, insomma, la sua popolarità si basa sicuramente sul fatto che in quegli anni intercettò un certo modo ironico e rabbioso di interpretare la giovinezza. Sicuramente è un libro che, ripeto, che ha avuto una straordinaria importanza perché ha influito su una generazione di scrittori americani e non solo americani. È un libro che a tutt'oggi viene letto dagli adolescenti, però insomma diciamo i capolavori letterari sono un'altra cosa. E sulla figura di Salinger? Beh, questa è una cosa, come dire, incredibilmente affascinante, che può essere spiegata in un milione di motivi. Diciamo che da un certo punto di vista si può pensare che lui lo abbia fatto perché dopo che hai raggiunto un successo di quel tipo, diciamo quasi non replicabile, forse la cosa migliore che tu possa fare, tanto più se sei un eroe legato alla giovinezza, è quella di toglierti di mezzo, insomma. È indubitabile che, non so se lo abbia fatto apposta o meno, che tra le tante ragioni per cui il giovane Holden è rimasto così tanto nel cuore dei lettori, anche per il contegno assunto, il nevroticissimo assunto dal suo autore, insomma. Probabilmente il giovane Holden non avrebbe quell'aura mitica con cui noi lo ricordiamo. E siamo al cinema. La vita non ci dà sempre le cose come noi le vogliamo, ma l'importante è che ce le dia. È la frase chiave di Baciami Ancora, sequel dell'ultimo bacio che lo rivelò al grande pubblico. 1, 2, 3, 4. Gabriele Muccino lo dice chiaro: Baciami ancora è la mia visione della vita dopo 10 anni. I 10 anni passati dall'ultimo bacio, di cui il film da oggi nelle sale è il sequel. Stessi personaggi, non tutti gli stessi attori. Vittoria Puccini sostituisce Giovanna Mezzogiorno, ma in questi 10 anni Muccino ha vissuto, conosciuto e imparato. Profondamente parla del senso delle cose, del senso della vita, il senso del progredire, il senso dell'andare avanti, anche lì dove si inciampa, e rialzarsi per continuare a guardare avanti, che è ancora più importante in momenti difficili. Baciami ancora. Non ho voglia di fare il sociologo, non parlo di generazioni, ribadisce Muccino, che non ha mai amato la definizione di commedia generazionale, ma che ammette qualche affinità, anche se involontaria, del suo film con Il Grande Freddo. Ci sono delle cose molto belle che non siamo riusciti a vedere. Io ti amo, Lili. È un bambino senza padre, tuo figlio. Io prima o poi riparto. Fa che? Coltivare il caffè in Brasile. Ora però Gabriele tornerà negli Stati Uniti per girare Passengers, un film di fantascienza con Keanu Reeves. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, alla parte tecnica Filippo Aureggi. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.